Il giardiniere N. Mentre stavo oggi incontrai un vecchio giardiniere, già morto da parecchio tempo. Egli mi venne incontro sempre più vicino e quando mi fu davanti mi fece un cenno di saluto molto simpatico. Io, sei N. Lui, sì. Io, come mai non ti ho ancora mai visto? Lui, ero legato. Io, come legato? Lui, non potevo. Io, spiegati meglio e dimmi di più. Lui, quanto sei umana. Me lo sono sentita gettare in faccia ancora questo rimprovero ed è frequente. Spesso appena apro una porta ho la sensazione che qualcuno mi viene incontro. Qualche cosa sguscia via accanto a me, e talvolta mi sento anche chiamare per nome. Avevano tagliato degli alberi nel giardino, ed ecco il giardiniere N stare in mezzo agli uomini e darsi al lavoro come loro. Io chiesi a chi mi accompagnava tanto per provare quanti erano gli uomini che stavano lavorando assieme. Purtroppo lei vide solo quelli vivi. Lo vidi 11 volte. Ma non riesco più a farlo parlare. Sì, parlare. Che cosa vorrei ancora dire? Di che cosa vorrei ancora parlare soprattutto? Son sempre le solite cose. Non so più che cosa possa chiedere ancora. Per un certo tempo ho fatto finta di non vedere le mie visite e non prestai loro nessuna attenzione. Allora esse divennero davvero degli spiriti tormentatori, mi diedero urtoni, punzecchiature, mi percossero anche. Adesso il mio ultimo metodo è non fare più domande e non parlare, ma soltanto pregare.